Vendo tutto di Matteo Caccia. Einstein sosteneva di poter vivere con solo quattro oggetti: un violino, una penna, un orologio e una giacca di pelle. Tutte cose regalategli dalla moglie. Violino, penna e orologio io le ho già vendute. E vado avanti, non mi fermo. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni. Capita, succede a tutti. E stavolta è toccato anche a me, lo so. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una borsetta da donna. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore. Perché il vero mistero delle donne non sono le cose che le donne non dicono. Il vero mistero delle donne che mi ha sempre affascinato è quello che tengono nelle loro borsette. C'è di tutto nelle borsette delle donne e soprattutto c'è tutto il loro mondo. Poi tu non è che puoi andare a vedergliele, non puoi aprirgliele, altrimenti ti pigliano a schiaffoni e poi non è bello, non si fa. Però io sono sempre stato affascinato da questa roba delle borsette delle donne. Vi faccio un elenco di cose che c'è delle cose che ci sono nella borsetta di una delle ascoltatrici di Vendo Tutto. Il portafoglio, il cellulare, il correttore, lo specchietto, la matita delle labbra, la chiavetta USB, la bustina dell'Auni, la bustina della tisana balsamica, biglietti da visita, biglietto di un autobus usato, mini trousse con trucchi vari, occhiali da sole, tic tac alla menta, tic tac all'arancia, scatola di chewing gum, lima per unghie, fazzoletto di stoffa, pacchetto di fazzolette di carta, 2 mazzi di chiavi, crema per le mani alla rosa, burro cacao alla ciliegia, terra per il viso, fondotinta alla borsa, cipria, profumo mignon, astuccio con 4 biro, pennarello nero, Moleskine e soprattutto un timbro professionale. Elena, scusa una cosa, ma tutta questa roba perché ce l'hai nella borsa? Pronto? Pronto, ciao. Ciao Elena. Ciao. Elena, spiegami un attimo. Innanzitutto il timbro professionale. È il timbro perché sono architetto. Ah, ok. E quindi hai il tuo timbrino? Ah, mio timbrino, bene sì. Cioè hai il timbro con scritto nome, cognome, architetto. Esatto, architetto, ordine degli architetti di Bologna e numero. E numero di cosa, scusami? Del dell'albo, di iscrizione all'albo. E qual è il tuo numero di iscrizione all'albo? È 2914. Ok, quindi questo è spiegato. E devo dire, i trucchi anche sono normali, va bene, li posso immaginare. Però, ad esempio, la coroncina del rosario a dito. Quella, essendo pendolare, quindi passo diverse ore, diciamo, sui mezzi pubblici, sì. Ho anche il rosario perché ho detto magari in un momento intanto prego anche un po'. Ma perché tu sei credente? Sì. Ah, sì, ok, sì. No, credevo fosse solo una cosa quasi scaramantica. No. Elena, è solo, Elena è solo una delle donne che ha aperto la sua borsa e oserei dire ha aperto il suo cuore sulla pagina Facebook del programma e ha messo un elenco di cose. Oltre a quelle di Elena, ad esempio Maria Lucia mi ha incuriosito perché aveva 1 metro e 1 livella in borsa, probabilmente era... Se tu sei architetto, lei era muratore. Oh, sì? Metro e livella? Sì, sì. E poi però Maria Lucia aveva anche la pattadese. La pattadese è quel coltello a serramanico sardo che qualcuno gli ha chiesto cosa te ne facevi. Lei ha scritto, può sempre servire. Elena, c'è qualcos'altro che avevi in borsa che non ci hai confessato? Oppure l'elenco che hai fatto è completo? No, è completo. Cioè, praticamente c'è tutto, direi. Tu quanti anni hai, Elena? Io ne ho 35. E vivi a Bologna, fai l'architetto, sei sposata? E vivo a Bologna, no, non sono sposata. Non sei sposata, non hai figli? No, figli, però, mi sono lasciata. Però, vabbè, capita Elena, capita. Però hai la borsa piena di robe, quindi sei una garanzia, sì, per il futuro. Speriamo. Grazie mille Elena, buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. A te. 800 24 00 24. Lo avete capito bene, donne all'ascolto, prendetevi 5 minuti, dai. Facciamo 10 minuti. Vi fermate un attimo, aprite sta borsa e aprite il vostro cuore. 800 24 00 24 oppure 349 238 6666. La vedo dura, in un SMS buttarci dentro tutta la roba che avete nella borsetta. Però secondo me è una bella chiacchierata, è anche liberatorio, no? È un modo per dire, guarda, ce l'ho piena di cianfrusaglie, alcune cose mi servono, alcune cose non mi servono. Però questa borsa racconta un po' anche di me. 800 24 00 24. Tra l'altro Anna, invece, sul profilo Facebook ha scritto: ma voi uomini, mi chiedo spesso, dove le tenete tutte le cose necessarie per la giornata? Rispondono in 3. Paolo, nelle borse di quelle donne che ci accompagnano. Giambattista, per le cose necessarie bastano una tasca e un portachiavi, e qui il minimalismo impera. Ma il mio preferito è Michele, che dice: in macchina. Gli uomini hanno tutto in macchina. Hai una gomma? Sì, è in macchina. Hai una penna? Certo, è in macchina. Servirebbe un cacciavite? Guarda, forse ce l'ho in macchina. Mi fai accendere? Cacchio, l'ho lasciato in macchina. 80024 0024. Oggi solo donne che aprono la borsa e il cuore in diretta, avendo tutto su Radio 24, e ci raccontano chi sono attraverso gli oggetti che hanno nella loro borsa, che è anche un modo per ricordarvi chi siete. 80024 0024. Veniamo invece alla borsetta che vendo oggi, che non è mia. Ora vi spiego com'è andata la storia. Potete vederla su radio24.it, potete sentirla esattamente qua. La borsa da donna. Borsa da donna marca Jordi Labanda, materiale plastico impermeabile, colore verde con fantasia a fiori e figura stilizzata di giovane donna sulla parte frontale. Fodera interna in raso lilla e tasca laterale con zip, chiusura a clip magnetica e doppio manico da spalla. Dimensioni: lunghezza 35 cm, larghezza 31 cm. Perfetta per giovani donne che vogliono atteggiarsi da adulte e donne adulte che vogliono mostrarsi giovani. Valore commerciale 70 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Avete presente Eta Beta? Eta Beta era un extraterrestre che ogni tanto bazzicava le storie di Topolino. Aveva una specialità: dalle sue tasche poteva venire fuori di tutto, perfino un'automobile. È evidente che Eta Beta era una femmina, perché le sue tasche erano come le borse delle donne. Oggi vendo una borsetta verde, non bella, devo dire la verità, che però potrebbe contenere più cose di quanto io ne possa vendere in tutta la mia vita. Non perché sia grande, ma semplicemente perché è una borsetta da donna. È perfettamente nuova, ma nuova dico, eh. Qualcuno l'ha lasciata lì, per terra, completamente vuota, durante l'inaugurazione della mia casa, qualche anno fa. E non sono mai riuscito a risalire alla proprietaria. E allora l'ho tenuta, aspettando che uno degli ospiti la reclamasse. Ho escluso gli uomini e le mie amiche dotate di buon gusto. Sì, perché lo devo ammettere, questa borsetta è veramente brutta. E ho per le mie amiche una considerazione tale che non credo potrebbero andare in giro con una cosa del genere al braccio. Insomma, dopo aver fatto una lista delle possibili proprietarie, ho mandato qualche mail, qualche messaggio, ma nessuna sembrava aver dimenticato quella borsa. Ho telefonato agli amici per capire se poteva essere stata un regalo per me. Avete presente uno di quei regali ironici che però, se non sono presentati bene, non fanno ridere nessuno? Magari, che ne so, doveva essere un dono con una busta dentro che spiegava i motivi, magari avrebbe dovuto sorprendermi la mattina dopo. Però, chi lo sa, magari la busta era andata persa, insomma, vai a sapere. Avevo immaginato anche questo. Niente. Nessuno ne sapeva nulla. E io brancolavo nel buio. Io e la borsetta. Eppure, comunque, a modo suo era un oggetto che era entrato in casa mia. Non potevo semplicemente buttarla. Seppure la considerassi orribile, poteva esserci qualche donna che magari la gradiva, no? Insomma, il dubbio mi rimaneva. O forse no. Forse era una signora misteriosa che si era intrufolata nella festa. Cosa avrebbe fatto questa donna? Perché l'avrebbe lasciata vuota lì in casa mia? Dopo qualche tempo decise di tenere la borsa in bella vista, in casa, e di non occuparmene più. Non so perché, però piano piano questa borsa ho cominciato a attribuirle un valore. Sì, io questa schifezza verde la considero come un alieno che mi suggerisce che ci sono altri mondi misteriosi che dovrei andare ad esplorare. Altri mondi femminili, oltretutto. Quindi in realtà non dovrei venderla, anzi dovrei usarla come un talismano, una sorta di bussola per la mia nuova vita. Eppure qualcosa mi dice che anche lei fa parte del passato di un Matteo che adesso sto superando e che devo guardare solo con sufficienza. E così faccio. Ecco perché la vendo, come se fosse una borsa qualunque. Le donne hanno molte libertà che gli uomini si sognano. Possono fare figli, possono dire che i fiori sono belli senza essere guardati storto, possono usare la gonna e i sandali quando fa caldo, possono allattare, ma soprattutto possono usare le borsette. Molti anni fa anche mio padre decise di portare la borsetta, d'accordo con tutti gli uomini della sua generazione. poi si accorse che le donne ridevano degli uomini col borsello e che chi lo portava non poteva avere la stima di chi aveva potere, perché le persone importanti non hanno mai avuto il borsello. Solo la gente normale, quelli che devono metterci dentro portafogli, chiavi, fazzoletti, block notes, penne, tessere del tram, guanti e cappelli di lana. Le persone importanti hanno qualcuno che lo fa per loro. Chi aveva il borsello quindi era destinato a rimanere un sottoposto a vita, anche nell'aspetto. E la moda del borsello passò. Perché alla fine nessuno vuole essere un sottoposto a vita. E almeno per come si presenta vuole far credere a se stesso e agli altri di essere un importante, no? Quindi si mette la giacca e la cravatta come l'amministratore delegato, compra una macchina che non può permettersi, la lava ogni domenica. Si aggira con fare sicuro ostentando occhiali alla moda, orologi giganteschi, ogni status symbol che gli sia concesso per confondersi con la classe dirigente. E però poi si ingolfa le tasche di roba, si siede sulle chiavi di casa, si fa malissimo, si sfonda i tessuti del vestito, perde le cose. Le donne no. Le donne non ne hanno bisogno. Una volta indossato un tailleur del mercato e imbracciato una borsa griffata cinese, possono sembrare il sindaco. E in quella borsa hanno il mondo. Da quando ho preso a frequentare le donne, sono sempre rimasto curioso di sbirciare nelle loro borse. Ho ricavato qualche schiaffone, ma anche trovato molto piacere. Mi serve per conoscerle. La maggior parte delle borse contiene a sua volta delle sottoborsette, che però hanno delle chiusure a lampo, quindi non si possono aprire. È una regola non scritta. Chissà cosa c'è dentro. E poi ci sono i portafogli, giganteschi, come se le donne fossero ricchissime, oppure piene di carte d'identità. Anzi no, perché i documenti d'identità stanno in un'apposita bustina, in pelle, un'altra. E poi ci sono telefoni, auricolari, iPod, fazzoletti di carta, caramelle, cicche, guanti di pelle, macchine per nipoti, cuginetti, un cappello che non useranno mai per non rovinarsi la piega. Le borse delle donne hanno tutte lo stesso odore, ed è l'odore della borsa di mia mamma. E frugarci dentro mi riporta indietro nel tempo e un po' mi commuove. Oggi noi uomini abbiamo una nuova arma, la borsa da lavoro. Si tratta di una discendente della 24 ore, incrociata con uno zaino da montagna. In pratica fa le funzioni della borsetta delle donne, ma per risultare socialmente accettabile deve essere gigantesca, deve contenere tantissimi documenti in formato A4, un'agenda grossa, un libro, magari una bottiglietta d'acqua o una sciarpa. Questo consente di inserirci tutto quello che fino ad oggi stava nelle tasche o relegato nelle borse di mogli e fidanzate. Insomma, stiamo diventando delle donne, solo che non possiamo rimanere incinta. Questa borsa verde e brutta, simbolo di mille mondi inesplorati, non ha più senso che rimanga in casa mia. Non so nemmeno di chi sia. Se qualcuno è legittimo proprietario, se la venga a reclamare ora, subito. Se no, piuttosto che buttarla, io la vendo. Quindi, nonostante tutto ciò che non conosco, nonostante quello che sta nelle borse, nonostante il profumo della borsa, io questa borsa la vendo. Il suo valore è di 70 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Per tutto quello che volete raccontare che tenete nella borsa, donne, 8-0024-0024. Andrea scrive: io qualche volta ci metto mano nella borsa della mia compagna e tra la sua borsa e il bidone del residuo manca proprio poco. E ancora AT da Verona: vi siete mai chiesti dove sono finiti i rifiuti di Napoli? Dovreste dare un'occhiata nella borsa di mia moglie. Ma noi vogliamo le donne che raccontano cosa c'è nella loro borsa, che la aprono qui in diretta Radio 24. 8-0024-0024. C'è Teresa da Roma. Pronto? Salve, sono Teresa. Ciao, ciao. Teresa, come stai? Non c'è malaccio. Senti, vai, apri sta borsa e dici che cosa hai dentro. Allora, documenti, portamonete, portafogli, scontrini vecchi, l'agenda, sempre un libro. Sì. E che libro hai adesso, scusami Teresa, che libro c'hai? Adesso c'ho, a partire da Boccaccio, è una serie di novelle da Boccaccio ai giorni nostri. Hai capito. Sì, molto interessante. Ma e poi mi dicono che tu hai delle chiavi inglesi. Sì, ho una chiave inglese tutto fare, sai, di quelle che si regolano a seconda della grandezza. Ma che lavoro fai, Teresa? Io ho una ditta di elaborazione dati, lavoro per conto mio. Sono e quindi cosa fai? Metti mano ai computer? Oppure... Ai computer, esatto, sì, inserisco dati contabili, contabilità del lavoro. No, questo lo immaginavo, ma con le chiavi inglesi che cosa ci fai? Quando vado in giro, dovesse capitare un'emergenza. Certo, guarda, ci stavo proprio pensando, Teresa. Dicevo, quando vado in giro ci vuole sempre una chiave inglese per mano, no? Ma poi sai, è che piccolina come arma è un po' piccola. Ok. Poi ho un set di cacciavitini a taglio, a croce. Tutto in borsa? Sì, tutto nella mia borsa. Senti, dimmi solo di come è fatta la tua borsa, quella che hai in mano adesso, com'è, grande? Allora, è media, è una borsa nera con varie tasche per trovare almeno in emergenza, che so, le chiavi, il rossetto, la matita. Ovvio, la certo, penna, per le emergenze al volo. Teresa, grazie mille, buona giornata. Anche a te, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Silvana dalla provincia di Cremona, pronto? Ciao Silvana. Allora, intanto la mia borsa non è enorme perché sono piccola e quindi... E quindi non riusciresti a portare una borsa enorme, giusto? Non potrei, esatto. Okay. E che cos'hai in questa borsa? Allora, dentro c'è il portafoglio, con tutto quello che c'è nel portafoglio, come hai detto, i documenti, soldi, tessere varie. Ma nella borsa in sé, oltre al portafoglio, che cos'hai, Silvana? Una sottoborsetta con dentro tutti i biglietti da visita dei ristoranti degli ultimi 5 anni, un libro. Che libro è? Un libro sul buddismo, la felicità in questo mondo. Ok, e poi hai degli appunti, mi dicono anche. Oh sì, ho delle lettere, degli appunti. Tutta roba tua? Tutta roba mia, sì. Ok, ma tu che appunti prendi? Che cosa fai nella giornata? Che lavoro fai, Silvana? Faccio il veterinario. Ah, ok. Scusami, fai il veterinario, non c'hai nemmeno un attrezzo da lavoro? Non c'hai una medicina per gli animali, un bisturi? Allora poi c'è la borsa da lavoro. Ah no, ok, allora non andiamo sulla borsa da lavoro, altrimenti non usciamo più. Silvana, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo da Francesca, provincia di Alessandria, pronto? Ciao, sono Francesca. Ciao, bene, allora io sono Matteo e sei esattamente la persona che cercavo, Francesca. Dimmi. Quindi dimmi che cosa hai nella tua borsetta. Allora... A parte il portafoglio che è un mondo per sé, quindi certo. Dovresti farci un'altra partita, un'altra puntata. Un'altra punta, ma anche un'altra partita, ce la giochiamo a dadi. Porta biglietti da visita, biro, colori, un libro. Che libro è? Dimmi chiaramente il titolo. Menkel, assassino senza volto. Ma che edizione, che edizione è? Henning Menkel, Marsiglio, gialli. Ma di cosa parla sto libro? Thriller, un giallo, ambientato in Svezia. Ma lo tieni nella borsetta perché lo leggi dove? Sui mezzi oppure... Quando sto aspettando, magari sono in posta, in giro, eccetera. Ma che lavoro fai? Come giri? In macchina, a piedi? Sì, in macchina che a piedi. Lavoro con mio padre, abbiamo un'agenzia di rappresentanza, però mi capita di andare in giro, eccetera. Un'agenzia di rappresentanza di cosa, scusami? Di materiali edili. Ah, ok. E non hai qualcosa di... Non c'hai tipo dei campionari nella borsetta? No, però ho una cosa che riguarda la mia vecchia laurea, cioè? Che è una laurea in storia dell'arte e in restauro di affreschi, uh-huh. È un bisturi con delle lamette che usavo all'epoca, uh-huh. E ce l'ho ancora nella borsa che comunque può sempre servire. Può sempre servire per fare cosa? Per restaurare al volo qualcosa? No, oppure per... Come arma contundente? Come arma. Ok, Francesca, grazie mille, buona giornata. Anche a te, ciao. Voglio prendere anche un uomo proprio al volo, Roberto da Milano, pronto? Ciao, sono Roberto da Milano. Ciao Roberto, bene, io sono Matteo da Milano. Tu sei un uomo e quindi non vuoi parlare della borsa di tua moglie o della tua fidanzata? No, io parlo del mio borsello. Oh, c'è ancora qualcuno che porta il borsello. Ma quello in cuoio, quello un po' rettangolarino? Sì, quello della bestia. No, ho un bel borsetto che porto da sempre, dai tempi di tuo padre, perché io più o meno avevo... Io ho 55 anni, quindi... Più o meno sì. Ma senti, ma ha la chiusura quella stlack con il gancino? Stlack che entra... No? No, un bel classico della Bridge, The Bridge, bello, con una doppia apertura. Senti, e che cos'hai, Roberto? Che cos'hai nel borsello al volo? Perché tu avrai le tasche vuote, quindi, immagino. A parte le solite cose che hanno tutto, io ho, di diverso dagli altri, le medicine per gli amici. Cioè? Il Sinflex, quando... Io non ho dolori, però c'ho il Sinflex... per gli amici. Ma perché? Perché somministri il Sinflex agli amici, Roberto? Sei un medico? No, perché mi fa fastidio avere in giro la gente che mi dice c'ho mal di testa, non ho digerito. C'ho anche il Neutrose, che li fa digerire. Così almeno c'ho sempre gli amici allegri attorno. C'è sempre gente che sta bene intorno a te. C'hai i nugoli di gente che ti cerca quando è malata. Roberto, grazie mille, buona giornata. Ciao Roberto, ciao, grazie. Io ringrazio questo che si porta al Simflex per gli amici, non l'ho mai sentito. Io ringrazio quelli che anche oggi hanno reso possibile questo programma, che sono soprattutto Laura Faggin, Pietro Lacorte, ma anche Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Stefano D'Andrea. Trovate altre informazioni sulla mia borsetta sul sito radio24.it o su Facebook a Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo un cactus. Donne d'Italia, invece, liberatevi delle cianfrusaglie che avete nella borsa, che viaggiare leggeri alla fine è sempre meglio che viaggiare pesanti. Love, love, love.